Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio. Iniziamo insieme una nuova settimana e lo facciamo, ahimè, con un argomento un po' indigesto, ma comunque dobbiamo prepararci, perché oggi a Salva Danaio, cominciamo pure con le papere la settimana, torniamo ad avventurarci nell'ambito degli adempimenti fiscali. Volenti o nolenti, infatti, i prossimi mesi non ci porteranno solo, si spera, almeno un po' di caldo alla bella stagione, ma ci faranno avvicinare anche alla stagione della dichiarazione dei redditi e a tutte le scadenze che questa comporta. La prima data importante è proprio quella di domani o dopodomani, perché nelle prossime ore, nei prossimi giorni, con la busta paga di questo mese, i datori di lavoro e più in generale i sostituti d'imposta dovranno, se non l'hanno già fatto, ma è abbastanza improbabile che sia stato già fatto così presto, consegnare ai dipendenti, ma questo vale anche per i pensionati, il modello CUD, cioè la certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente. Il certificato, che potrà essere rilasciato con la modalità cartacea o in forma telematica, è quel documento che attesta l'ammontare dei redditi che ci sono stati corrisposti dalla nostra azienda o dall'ente previdenziale lo scorso anno, le ritenute operate, le detrazioni di imposta effettuate, i contributi previdenziali e assistenziali versati. E questo documento è molto importante perché è il punto di partenza per cominciare a svolgere tutti i prossimi adempimenti della dichiarazione dei redditi, come per esempio con la compilazione del modello 730 o del modello unico. Proprio a partire da questo primo passo, Salva Danaio oggi farà il punto sulle novità di quest'anno per la dichiarazione dei redditi, rispondendo anche alle vostre domande, senza dimenticare un'attenzione particolare anche alle possibili novità in arrivo dalla riforma fiscale, anche se, come avete letto in questi giorni sui giornali, è saltato quel progetto del governo di convogliare i proventi della lotta all'evasione fiscale in un fondo taglia IRPEF per le classi di reddito più basse. Comunque, noi parleremo fondamentalmente del CUD, quindi attenzione da parte sia delle aziende che dei lavoratori appunto a questo documento. A cosa ci serve? Ne parleremo con la dottoressa Maria Luisa Decia, presidente della Commissione Lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Buongiorno, benvenuta, bentornata anzi. Buongiorno, anche grazie. Se la sua ultima presenza risale ad un bel po' di tempo fa, e credo che forse proprio l'altra volta l'avevo riconvolta su questo stesso argomento. Esatto. Va bene, la prossima volta le faccio fare qualcosa di più divertente. No, va benissimo. E poi un altro amico di Salva Danaio, Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, che già negli ultimi giorni su questo tema ha scritto molto. De Stefani, buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, rifaccio come sempre ai nostri ascoltatori la panoramica delle modalità con cui potete intervenire nel corso della nostra trasmissione con le vostre domande. Potete intervenire in diretta all'800 24 00 24, potete scriverci degli sms al 349 238 6666, delle mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, e potete anche animare il nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Prima di partire su questo argomento, la borsa, allora intanto vedo una buona notizia per chi ha da qualche anno contratto un mutuo a tasso variabile, perché sta proseguendo la corsa al ribasso dei tassi interbancari. Poco fa il contratto a 3 mesi, almeno questa mattina, è sceso sotto la soglia dell'1%, quindi al di sotto del tasso di riferimento del costo appunto del denaro dell'Eurozona, che come sapete è all'1%. In questo momento una buona notizia, almeno visto che le famiglie sono un po' tartassate da molti punti di vista, almeno il mutuo è un po' tranquillo e speriamo che come tale si mantenga ancora a lungo. Le borse sono negative questa mattina, ve lo dicevo già nel corso del giornale radio, perché sono un po' deluse rispetto a quanto è emerso dal G20 di Città del Messico, dove si chiede, almeno lo hanno fatto il Fondo Monetario Internazionale e gli Stati Uniti, un po' più di elasticità alla Germania nel predisporre un allargamento delle risorse del Fondo Salva Stati. E siccome la Germania, come sapete, non è molto propensa a questa maggiore elasticità, e allora le borse glielo chiedono con insistenza. Abbiamo un calo di Parigi dell'1,14%, Francoforte -1,14%, lo stesso, Londra -0,8%, Milano perde 1,5%. Su Milano le vendite a pioggia riguardano il settore bancario, Monte dei Paschi, che è stato il titolo al centro delle maggiori speculazioni nell'ultimo periodo, oggi frena in maniera molto forte, perde più di 5,5 punti, anche UbiBanca meno 5,74, un calo di 5 punti anche per Finmeccanica per questa inchiesta in India sulla costruzione di 12 elicotteri, un appalto appunto molto importante sul quale si sta indagando per un presunto giro appunto di corruzione. Banco Popolare meno 4, Unicredit meno 3, Banca Popolare di Milano meno 2,68%, abbiamo in questo momento solo due titoli positivi sul FTSE MIB. Telecom Italia, che continua a correre dopo la pubblicazione dei conti di settimana scorsa, più 2,71%, e in pregiro in rialzo del 2,30%. Da oggi torna la possibilità di operare vendite allo scoperto perché è terminato il blocco da parte della Consob. C'è stata un'asta bot questa mattina di titoli a 6 mesi, i rendimenti sono in forte calo, oltre 8 miliardi di titoli a 6 mesi appunto collocati da parte del Tesoro, il rendimento è sceso all'1,20% dall'1,96% dell'asta del 27 gennaio. Questa è la borsa di oggi, lo spread, ce lo vogliamo dimenticare per carità del cielo, siamo sui 359 punti base. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi, cominciamo ad esplorare gli adempimenti per la dichiarazione dei redditi di quest'anno. Sta per entrare a pieno regime la stagione della dichiarazione dei redditi e ad attivare la macchina fiscale sarà la consegna, in allegato alla busta paga, della certificazione unica da parte dei sostituti d'imposta o degli enti pensionistici attestante i redditi erogati nel corso del 2011 ai dipendenti o ai pensionati. Il cosiddetto CUD, come sempre in duplice copia, va consegnato entro domani, 28 febbraio. Attesta l'ammontare dei redditi corrisposti nell'anno, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali. E per questa versione, targata 2012, non mancano le novità. I sostituti di imposta dovranno prestare attenzione all'indicazione del secondo acconto IRPEF ridotto del 28,6%, al calcolo dell'addizionale del 10% su bonus e stock option nel settore finanziario e alla tassazione agevolata per i cervelli in fuga che decidono di rientrare in Italia come dipendenti. Non vanno dimenticate poi le novità per la tassazione del TFR e del TFM e il contributo di solidarietà. Come già avveniva negli anni passati, il sostituto di imposta può scegliere se inviare la certificazione al contribuente in formato elettronico. Una modalità quest'ultima che potrà essere utilizzata solo per quanti siano in grado di ricevere e stampare la certificazione via email. Se invece i destinatari del CUD sono gli eredi di un lavoratore o un dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro, il modello va consegnato obbligatoriamente in formato cartaceo. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Vedo già che molti ascoltatori ci stanno cominciando a scrivere e devo dire che ahimè, purtroppo, una domanda molto gettonata è quella che fanno i lavoratori che hanno avuto qualche problema di lavoro lo scorso anno e che chiaramente fanno fatica a capire se l'azienda rilascerà quest'anno questa certificazione, ma anche se si è lavorato poco. In ogni caso, dottoressa De Cia, chiariamo subito questo dubbio: le aziende in ogni caso le aziende sono sempre tenuta ad emettere il modello CUD, e qualora non ci sia stata poi l'erogazione totale dei compensi, secondo quanto dovrebbe risultare dalle varie buste paga emesse nel corso del periodo, quantomeno andrebbero certificati i redditi effettivamente corrisposti. Ah, quelli effettivamente corrisposti, certo, quindi sì, quantomeno da un punto di vista fiscale. Poi invece da un punto di vista previdenziale, dove il regime va per competenza e quindi non più per cassa, nella parte fiscale del CUD devono essere indicati invece i redditi effettivamente di competenza dell'anno 2011. Mm-hmm. E tra l'altro, allora, una cosa interessante, magari lo racconta ai nostri ascoltatori, appunto, che lei è un'esperta, è una consulente del lavoro, sì, e sta seguendo le aziende in questo, certo, adempimento di quest'anno. Quali sono le, come dire, situazioni più complicate che sta monitorando, dottoressa De Cia? Ci racconti un po' che succede nei suoi uffici? Ma niente, la difficoltà è quella comunque sempre di poter rispettare le scadenze, perché la modulistica del CUD viene poi autorizzata dal Ministero sempre con un certo ritardo, le software house devono poi necessariamente adeguare gli standard e quindi a noi arriva il prodotto finito un po' tardi e i tempi per poterli elaborare nei termini non sempre ci sono, e quindi qualche volta non si riesce a rispettare la scadenza del 28 per poterlo consegnare alle aziende, che poi a loro volta dovranno consegnarli ai lavoratori a spedirli per i casi in cui è prevista la spedizione e quant'altro. Quindi la difficoltà è un po' quella di stare dentro ai termini e rispettare i termini, anche se poi adesso diciamo che indicativamente la prima data importante è quella del 28 febbraio, in questo caso abbiamo un anno bisestile, appunto il 29. Gran parte delle aziende consegnano il CUD entro fine febbraio, ma non è detto che ci sia in assoluto l'obbligo di farlo, si può fare anche entro la fine di marzo. L'importante sì, diciamo, è che quanto prima, comunque in tempo utile per consentire ai lavoratori che devono poi presentare la loro dichiarazione dei redditi di poter accedere all'appuntamento con i CAF, che ovviamente cominceranno subito per la predisposizione dei 7.30, oppure per il commercialista o i professionisti abilitati all'invio delle dichiarazioni 7.30, e poi ovviamente anche per l'unico. Certo. Luca De Stefani, ancora buongiorno. Allora, dicevamo in apertura che il certificato, il CUD, va rilasciato, può essere rilasciato sia con la modalità cartacea o in forma telematica. Quale modalità utilizzano in prevalenza le aziende? Io al momento ancora il Sole 24 Ore ce la rilascia in modalità cartacea. Sì, la maggior parte delle aziende utilizzano la modalità cartacea, in effetti dovrebbero recuperare l'email dei singoli dipendenti per poter consegnare il CUD tramite modalità telematica, però questo non viene molto utilizzato, in effetti. È vero che viene rilasciato in genere una duplice copia del CUD al lavoratore? Sì, una duplice copia, perché solitamente una copia rimane al datore di lavoro, al dipendente, e invece l'altra copia viene consegnata al commercialista o al CAF per la predisposizione dell'eventuale 7.30. Certo, non è detto poi che tutti i lavoratori appunto debbano farla. Molto spesso il CUD vale anche come dichiarazione dei redditi, giusto, dottor De Stefani? Sì, è corretto. Se c'è un solo datore di lavoro non abbiamo nessun problema per fare l'eventuale ulteriore dichiarazione, se non abbiamo altri redditi, come ad esempio redditi da fabbricati diversi dalla prima abitazione, perché se mi trovo nella situazione di avere un unico datore di lavoro, quindi un unico CUD e solamente la prima abitazione, non sono obbligato a fare il modello 7.30. Beh, ci sono, a parte diciamo la denuncia di altri redditi percepiti, il 7.30 si può fare anche solo se banalmente abbiamo un unico reddito percepito, ma magari solo delle spese da detrarre, sanitarie. E allora lì non sono obbligato a fare il 7.30, ma ho la convenienza di farlo, perché se ho delle spese mediche detraibili, ovviamente queste spese mediche non sono state considerate dal mio datore di lavoro nel momento in cui mi ha effettuato il conguaglio di fine anno e il conseguente CUD, e allora ecco che a me conviene presentare il modello 7.30 in modo tale da poter detrarre dal mio reddito complessivo queste spese mediche, interessi per il mutuo prima casa, oppure polizze pensionistiche e così via. Nella compilazione del CUD dal punto di vista delle aziende, dottoressa De Cia, un'ultima domanda, poi dobbiamo già fare la prima pausa della nostra trasmissione. Quest'anno ci siamo dovuti confrontare anche con gli aumenti di molte addizionali IRPEF da parte di diverse regioni? Sì, certo, con i provvedimenti di fine anno è stato aumentata l'addizionale regionale dello 0,33%, quindi le regioni che applicavano, come per esempio la Lombardia su una fascia di reddito applicava lo 0,90, ora l'aliquota minima è diventata l'1,23%, e questo importo è stato evidenziato già, se ne è già tenuto conto in sede di determinazione dell'addizionale regionale, così come dell'addizionale comunale per il 2011, che verrà poi però spalmata nel corso del 2012 e trattenuta in rate nel corso del 2012. Quindi l'effetto di questo aumento, pur imputabile al 2011, si ha poi nella busta paga del 2012. Ah, quindi non lo vedremo diciamo nel CUD di quest'anno? No, è già evidenziato, è già evidenziato nel CUD, però sì, non lo abbiamo ancora. Il CUD evidenzia l'importo dell'addizionale regionale, così come dell'addizionale comunale, anche del relativo acconto dell'addizionale comunale, che verranno poi trattenuti nel 2012, perché le addizionali regionali e comunali, a differenza dell'IRPEF, vengono quantificate a fine anno e poi trattenute in 11 mesi nel corso del 2012. Perfetto. Allora, stavo guardando le nostre domande, le domande dei nostri ascoltatori. Luca De Stefani, ho un messaggio per lei. Sì. C'è un ascoltatore che chiede, può chiedere a Luca De Stefani se è di Treba Seleghe? Ha fatto le medie al collegio Pio X, era in classe con me, grazie Paolo. Io sono una portatrice di missive di questo tipo, il paese è quello se non mi ricordo male. È quello. Ecco, sì. Quindi insomma lei la sua privacy ormai è andata completamente, ma d'altronde quando vi prestate a venire nelle nostre trasmissioni purtroppo dobbiamo raccontare anche molte cose. Comunque è una cosa piacevole, salutiamo questo ascoltatore, grazie, che ha fatto anche questa caramba questa mattina attraverso i nostri microfoni. Detto questo, direi di sentire le domande dei nostri ascoltatori. C'era però un altro aspetto del quale discutevamo con Maria Luisa De Cia. Ribadisco con i nostri ascoltatori che stiamo parlando dei primi abbozzi della dichiarazione dei redditi 2012 e in questo periodo le aziende, così come gli enti di previdenza, devono rilasciare ai lavoratori dipendenti e ai pensionati il modello CUD che attesta i redditi che sono stati percepiti lo scorso anno, e questo è il punto di partenza fondamentale poi per fare la dichiarazione dei redditi di quest'anno. Ammettendo che un lavoratore lo scorso anno avesse avuto due rapporti di lavoro differenti, è vero che può rilasciare anche che può avere un CUD unico, dottoressa De Cia? Sì, se a condizione però che il lavoratore prima del momento di effettuazione del conguaglio da parte del datore di lavoro finale, quindi quello in essere a dicembre, abbia consegnato il CUD del precedente datore di lavoro. In tal caso avrà effettuato una richiesta di conguaglio sull'intero rapporto di lavoro, su tutti i redditi percepiti dal datore di lavoro, da tutti e due i datori di lavoro, e quindi a quel punto il lavoratore avrà sicuramente avuto una batosta a fine anno, perché avrà avuto delle buste paga veramente terribili, ma a quel punto non dovrà, se non vi è tenuto per altre motivazioni, non dovrà presentare alcuna dichiarazione dei redditi, a meno che appunto non ne abbia convenienza, come si diceva prima, per effetto di detrazioni d'imposta, di oneri deducibili che possono essere dedotti in sede di dichiarazione. Ci sono delle aziende che non hanno l'obbligo di presentare il CUD o nessuna esenzione prevista? No, le aziende devono presentare il modello CUD nel momento stesso in cui operano come sostituti d'imposta. Dottor De Stefani, per quello che riguarda i pensionati, ci sono le medesime scadenze, entro fine di questo mese arrivano i CUD per tutti i pensionati che facciano riferimento a qualunque ente previdenziale? Sì, la scadenza è sempre il 29 di questo mese. Ricordiamo che poi per il modello 730 la scadenza sarà quella del 30 aprile per la consegna del 730 al proprio datore di lavoro o all'INPS, oppure il 31 di maggio per la consegna presso un CAF o un dottore commercialista. Ecco, che le istruzioni al modello 730 hanno un errore nell'ultima pagina, in quanto indicano la scadenza anche per quest'anno del 2 maggio 2012. In realtà è un refuso di stampa, perché lo scorso anno il 30 aprile era di sabato e quindi lo scorso anno scadeva il 2 maggio 2011, quest'anno invece scade il 30. Benissimo, allora ha fatto bene a ricordarci gli estremi di queste scadenze, perché in tutto questo lasso di tempo non è che dobbiamo stare con le mani in mano, soprattutto per chi la dichiarazione deve farla e ha magari una situazione piuttosto complessa, e queste settimane sarà bene che le utilizzi per radunare tutta quella documentazione necessaria poi per fare le detrazioni, le deduzioni e quant'altro, e magari nelle prossime settimane ci ritorneremo su questo argomento. Quindi, che ne so, se avete fatto lavori extra l'anno scorso vi arriverà la certificazione delle aziende per le quali avete lavorato, oppure la documentazione che arriva dalla banca, dottoressa De Cia, per fare la detrazione del mutuo o degli interessi sul mutuo. Ecco, quindi dobbiamo ricordarci tutte queste cose, non buttiamo niente. No, e ricordiamoci anche un'altra cosa, perché poi è interessante e spesso la sottovalutiamo: la certificazione che ci rilascia la farmacia per le spese farmaceutiche fatte in carta chimica, è bene fare la fotocopia perché colorisce. Verissimo. Sembra una sciocchezza, è verissimo, però poi al commercialista non se ne fa niente se la presentiamo incomprensibile. Andiamo ai nostri ascoltatori. Fabio da Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno, ci dica. Niente, io ho sentito l'argomento della trasmissione e mi è venuta un po' la curiosità riguardo alla mia situazione, che penso che purtroppo possa accomunare anche altri. Nel senso, io ho lavorato da gennaio a giugno presso un'azienda che non mi ha corrisposto gli stipendi, insomma, per cui dopo questo periodo c'è stata dimissione di giusta causa e in seguito l'INPS con sostegno. E per cui io probabilmente riceverò il CUD fino comunque al momento delle dimissioni, e mi chiedevo, visto che comunque siamo in causa, quei soldi non sono mai stati ricevuti, se fare la dichiarazione dei redditi, come farla e se posso portare comunque in detrazione delle spese nel 7.30 quando la farò. Va bene, Fabio, bocca al lupo per tutto, naturalmente quantomeno la nostra pacca sulla spalla ce l'ha molto volentieri e speriamo appunto che possa risolvere al più presto anche questa situazione pregressa. Dottoressa De C, allora intanto mi verrebbe da dire una parolaccia, nel senso che cioè, i mazziati è anche l'altro termine. Teoricamente Fabio dovrebbe pagare appunto le imposte su quello che ha ricevuto complessivamente lo scorso anno, anche se materialmente non ha percepito gli stipendi. No, se non ha percepito gli stipendi non dovrebbe dichiarare la parte di stipendi non percepiti, dovrà dichiarare solo ed esclusivamente le somme che ha effettivamente percepito. Poi, visto che anche il lavoratore è in causa, come ha detto lui, le somme che poi percepirà dovranno essere erogate tenendo conto, nel momento in cui vengono erogate, delle imposte in vigore per l'anno di maturazione. Ah, ecco, quindi qualora dovessero arrivare aumenti, speriamo di no perché non credo che siano in programma. Normalmente si considera, esatto, il pregresso praticamente. Viene applicata la tassazione separata, teoricamente. Dottor De Stefani, voleva aggiungere qualcosa sul caso di Fabio da Venezia? Sì, diciamo che la data da prendere in considerazione è sempre il 12 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello di competenza dello stipendio. Quindi se ad esempio lo stipendio del mese di dicembre viene pagato entro il 12 di gennaio di quest'anno, fa reddito nell'anno 2011 e quindi va dichiarato quest'anno la dichiarazione di redditi che si presenta adesso. Se però il pagamento viene effettuato dopo il 12 di gennaio, ad esempio il 13-14 di gennaio, dovrebbe andare nell'anno successivo, quindi con le aliquote, come giustamente veniva detto prima, dell'anno di quest'anno, che si presume, si spera, come si è sentito dagli annunci di stampa dell'intenzione del governo, che l'aliquota minima, la più bassa, quella del 23%, verrà ridotta al 20%. Allora andiamo a Giovanni da Massa Carrara. Giovanni, buongiorno. Oh, buongiorno dottoressa. Ci dica tutto. Intanto complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Molto bene. Niente, proprio oggi ho una pratica in mano, nel senso che io sto curando da qualche mese la situazione di mia moglie, e che lavorava l'anno scorso come assistente sanitaria. Giovanni, mi scusi, che telefono ha? Si può mettere la cornetta ben posizionata davanti alla bocca, perché la sentiamo un po' così, la perdiamo in certi momenti. Ho capito. Mi sente? Sì, sì. Proviamo. C'ho il telefonino, c'ho il telefono al telefonino. Va bene, proviamo. Si tratta di questo. Mia moglie l'anno scorso è stata licenziata nei primi di febbraio. Già l'anno scorso con questi signori, particolarmente col figlio della persona assistita, perché parliamo di un'anziana messa molto male. Allora, sua moglie faceva assistenza come... adesso mi viene... Sì, ok. Ecco, niente, quest'anno mia moglie ha presentato una domanda di un'istanza di disoccupazione ordinaria, come l'ha fatta anche l'anno scorso, consigliata proprio l'INPS, e io per il 2010 l'hanno accettata. Abbiamo avuto fatica ad avere il documento, cioè il famoso documento che viene che è necessario a correggere la domanda, sarebbe il modello DL88. Giovanni, guardi, io la sento malissimo con questo telefono, però adesso magari sulla base delle poche indicazioni che abbiamo vediamo cosa possiamo stabilire appunto con i nostri consulenti. Intanto, da quello che capisco, faceva assistenza anziani, è stata licenziata, ha esaurito questo rapporto di lavoro lo scorso febbraio, però per questo arco di tempo, dottoressa De Cia, in ogni caso un CUD deve essere rilasciato anche in caso di prestazioni di questo tipo. Facciamo riferimento anche magari alle molte badanti che ci stanno ascoltando, famiglie che hanno questi rapporti di lavoro nel loro ambito. Sì, nell'ambito di quello che è il rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro domestico non è un sostituto d'imposta e quindi non si applica la normativa relativa ai sostituti d'imposta e quindi non c'è l'obbligo all'emissione di un modello CUD. C'è però l'obbligo di comunicare al lavoratore quelli che sono un riepilogo praticamente del reddito che è stato erogato al lavoratore domestico. quindi anche al lavoratore domestico, se non viene rilasciato un CUD vero e proprio, una dichiarazione sostitutiva è più che sufficiente per poter poi adempiere a quelli che sono gli obblighi di legge. E poi per prendere, dottor De Stefani, per poter appunto fare l'istanza anche per la richiesta dell'indennità di disoccupazione, serve questa documentazione, questa certificazione che la dottoressa De Cia ci indicava? Sì, serve, e poi va tutto quanto indicato nel proprio 730, in quanto le due importi fanno cumulo. L'abbiamo recuperato Giovanni o ancora no? Niente, telefonata problematica questa mattina, chissà che cosa voleva arrivare a chiederci. In ogni caso, così ci siamo un po' orientati sulla base del senso. Antonella da Roma, buongiorno. Buongiorno. Senta un'informazione, io sono 10 anni che prendo la pensione di inabilità al lavoro più accompagno. In tutti questi anni non ha mai fatto l'accompagno cumulo nel reddito, non è stato mai considerato. Quest'anno mi è arrivato il CUD comprensivo dentro la dichiarazione dei redditi. Quindi l'ente praticamente pensionistico che le eroga questo assegno di questa che le certifica l'inabilità al lavoro, praticamente le ha anche contestualmente fatto il cumulo dei due redditi che percepisce. Quindi voleva sapere se era corretto. Cioè, nel senso, l'accompagno non dovrebbe fare cumulo. Non dovrebbe, perlomeno fino a questo momento a lei non era successo che facesse cumulo. No, a nessuno. L'accompagno proprio non veniva considerato. Va bene. Allora, nella teoria la dottoressa De Cia mi stava dicendo in privato che effettivamente l'ascoltatrice dovrebbe aver ragione, ma ci stavamo chiedendo come mai un ente previdenziale ha già inviato la documentazione il CUD, perché siamo veramente in largo anticipo sul previsto. Sì, ecco, quindi, normalmente non è così tempestivo. Le risulta appunto che abbia ragione Antonella, che l'assegno per l'accompagno non sia accumulabile con quello percepito per l'inabilità al lavoro? Sì. De Stefani. Sì, spesso succede che questi assegni magari sono talmente bassi che quindi sono al di sotto dei limiti minimi per la tassazione dell'IRPEF, però se vi è un altro reddito che supera gli 8.000 euro, che è l'importo minimo, diciamo, di reddito tassato, poi vi è da fare, vi dovrebbe essere il cumulo, se questo viene erogato dall'INAIL. In altri casi bisognerebbe vedere nello specifico che tipo di indennità è questa, e comunque consiglio alla nostra ascoltatrice di guardare il campo 1 della parte B del CUD. Se il reddito è indicato in quel campo lì, allora è soggetto a IRPEF per obbligo. Allora, niente Antonella, si deve andare a guardare questo riquadro. Sentiamo Umberto da Salerno. Umberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci grazie dica. Innanzitutto perché questa mattina ho appreso che praticamente non ho preso stipendi per quanto riguarda l'anno 2010. E l'anno scorso ho pagato praticamente le tasse sull'intero importo dichiarato sul CUT. Vabbè, roba acqua passata, diciamo. Quindi, vediamo se magari questa situazione si può sistemare. Non lo so se posso recuperare, perché ho pagato le tasse su tutto il reddito dichiarato sul CUT. In realtà io il 50% non l'ho incassato, praticamente la stessa situazione dell'ascoltatore precedente, che sono in causa. Ok, però la mia domanda era un'altra. Sì. Posso? Certamente, sì. Come no? Io praticamente, ecco, a gennaio 2011 fino a luglio sono andato in cassa integrazione, dopodiché da luglio ad oggi sono in mobilità, quindi prendo un'indennità di mobilità. Volevo sapere appunto se chi mi deve fare il CUD, non so se l'INPS o meno, e se sono obbligata a fare la dichiarazione dei redditi in quanto ho, diciamo, delle proprietà oltre alla casa, all'abitazione principale. Allora Umberto, si fermi lì, intanto cominciamo con la dottoressa De Cia. Quali prime indicazioni possiamo dare ad Umberto? Sia l'indennità di mobilità che l'indennità di cassa integrazione, quando erogata direttamente dall'INPS, verranno poi certificate dall'istituto, e quindi dovrà essere verificato se l'istituto ha tenuto conto delle indennità erogate e ha effettuato il conguaglio correttamente. Quindi è opportuno che si faccia comunque verificare la documentazione che riceve dall'istituto, da un professionista o da un CAF, e visto che comunque ha altre proprietà, ritengo che non possa sfuggire alla dichiarazione dei redditi. Infatti, Luca De Stefani vuole aggiungere qualcosa. Mi ha stupito molto quello che ci ha raccontato Umberto all'inizio. all'inizio, cioè che pur non avendo percepito dal gran parte del reddito al quale aveva diritto nel 2010, lui abbia interamente versato la tassazione sull'importo teorico praticamente percepito per tutto l'anno. Sì, in questo caso consiglio di fare una dichiarazione integrativa, che è ancora in tempo per farla, e fare un'istanza, un'apposita istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate. In carta semplice, senza bollo, una semplice dichiarazione in cui vengono esposti i fatti e viene chiesto il rimborso. Che tempi ci sono per ottenere questo rimborso, De Stefani? No, mi stavo chiedendo perché può farlo in compensazione rispetto alle nuove tasse che deve pagare, oppure proprio gli arriva un assegno, dice, guarda, scusa tanto, ci siamo sbagliati, ma... Non sì, gli arriva un assegno da parte della Banca d'Italia, però comunque i tempi sono abbastanza lunghi, ecco, va bene, magari, secondo me sarebbe un gran lusso. Comunque Umberto magari ci scriva, ci dia la sua mail, se vuole le daremo la procedura corretta, perché tanto se lei le ha già dati per persi, quantomeno tentiamo anche nel suggerimento pratico di questo, di questa modalità, insomma. E dunque Marco, il mio assistente, mi segnalava questo SMS: sono una ragazza di 23 anni, non sono più a carico dei miei genitori da diversi anni, ora vivo con il mio compagno affittando una stanza, posso chiedere qual è il minimo reddito per fare la dichiarazione e se posso scaricare, ecco, anche l'affitto, anche se siamo in una camera, quindi non affittiamo un'intera abitazione? È una domanda che mi fanno molto spesso. Dottor De Stefani, allora, una persona che vive in affitto può detrarre l'importo dalla dichiarazione dei redditi? Sì, può detrarre. Vi è una detrazione specifica introdotta qualche anno fa, e solamente se però siamo di sotto di certi redditi, che sono 15.000 euro, e abbiamo una detrazione pari a 900 euro. E questo per l'affitto della prima casa. Per quanto riguarda la domanda relativa al limite minimo per fare la dichiarazione, dobbiamo sempre basarci sul limite minimo di importo da pagare, che sono 10 euro. Di solito, se abbiamo un lavoro dipendente al di sotto e percepiamo come importo lordo un importo inferiore agli 8.000 euro, non vi è poi nessun conguaglio ulteriore da fare. Allora, secondo lei questa giovane ragazza che ci ha scritto può fare la detrazione per la spesa che sostiene per l'affitto solo di una camera che condivide con il suo fidanzato? Ci vuole un contratto regolare e dell'intero importo. Di solito per una stanza così sono dei contratti magari transitori o comunque non registrati, ma bisognerebbe vedere il tipo di contratto. Potrebbe anche essere, perché se il contratto è registrato sicuramente può essere detratto l'importo che abbiamo detto prima. Allora invitiamo questa ragazza che non si firma a scriverci, se vuole, a salvadanaio@radio24.it. Andiamo a Napoli da Edmondo Mongiorno, dalla provincia di Napoli, anzi per l'esattezza. Buongiorno a lei, Mongiorno. Una domanda semplicissima. Senta, io sono un pensionato, mia moglie è insegnante, abbiamo una casa di proprietà dove abitiamo. Sì. Domanda, dobbiamo fare il 730? Perché l'ho fatto fino all'anno scorso, perché avevo da dedurre un'assicurazione, che adesso non posso dedurre più. Non ha più quella, tutto, e quindi praticamente sentiamo se è sufficiente il CUD di entrambi, il primo percepito dall'ente pensionistico, il secondo dalla scuola. Decia, ci vuole aiutare lei? Sì. No, se non ci sono altri redditi non c'è alcun obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Potrebbe... Hanno una proprietà ma ci vivono dentro. Esattamente, se è la casa di proprietà non hanno spese da dedurre, quindi non hanno mutuo. Non hanno convenienza a presentare la dichiarazione dei redditi, quindi non c'è un obbligo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, a meno che non abbiano magari interesse a destinare l'8 per mille, il 5 per mille. Delle imposte pagate. Ah, ecco, perché magari ci può essere la situazione più semplice del mondo, come quella appunto del nostro ascoltatore di Napoli, poi però magari, ecco, loro vorrebbero versare queste il 5 per mille, appunto l'8 per mille, e devono per forza di cose quindi farlo attraverso la modalità. Possono, oltre a presentare la dichiarazione dei redditi fosse solo anche per la scelta del 5 o dell'8 per mille, potrebbero anche eventualmente utilizzare il quarto foglio del CUD, dove viene elencato, dove c'è la possibilità di firmare la destinazione dell'8 per mille, ovvero del 5 per mille, e inviarlo poi all'Agenzia delle Entrate con la modalità modalità che peraltro è anche indicata nelle istruzioni del modello CUD. Allora, rapidamente, tra l'altro, Paolo, quanti minuti mi mancano prima della chiusura? Uno, due, tre, uno, ancora un minuto, quindi è pochissimo, 50 secondi, quindi io non riesco a sentire Roberto da Milano, Christian da Mantova, beh, Christian... Ah, 57 chiudono, mi mancano 57 secondi. Vabbè, allora Christian da Mantova, la sua è una domanda che mi interessa molto. Buongiorno. Buongiorno. Io chiamavo in merito a un accertamento che ho avuto dall'Agenzia delle Entrate sulla mia posizione privata relativamente ai redditi dell'anno 2008. Sostanzialmente mia moglie, che era a mio carico, in quel periodo ha fatto una piccola attività per conto di una società, solamente che l'attività, la società è fallita, quindi sostanzialmente non ha più avuto, non ha rilasciato né il CUD per quei pochi mesi che ha fatto, quei tre mesi che ha fatto, né tantomeno altri documenti, in quanto lo stesso commercialista che curava la società si è rifiutato di fornire questa informazione, perché anche lui molto probabilmente non ne veniva pagato. Ecco, certo, quindi ci figuriamoci se mi interessa tutelare quell'azienda e spiegare a tutti gli interessati che cosa combinava. Quindi Christian, che cosa le contesta l'Agenzia delle Entrate? Di non avere il diritto di tenere a carico sua moglie? Sì, esattamente, di non aver più carico mia moglie, quindi mi ha detratto spese di mutuo e spese di sanitarie, perché essendo i figli collegati a mia moglie non erano più a carico. Mamma, che situazione. Allora, intanto Luca De Stefani, come può chiarire all'Agenzia delle Entrate quello che stava accadendo in quell'anno, appunto, visto che il suo operato mi sembra in totale buona fede, quello del nostro contribuente di Mantova? Sì, può essere successo che il consulente dell'azienda fallita abbia comunque inviato il modello 770 all'Agenzia delle Entrate, indicando che è stato percepito un reddito superiore ai 2.500 euro, che è il dato per avere il familiare a carico, e indicando anche ad esempio che ci sono i figli a carico, ad esempio tutti quanti a carico della moglie, invece erano da indicare 50% uno e 50% all'altro. Quindi se questo è successo, può essere che nei dati dell'Agenzia delle Entrate vi è un reddito effettivo percepito da parte della moglie, che in realtà non è stato poi percepito, quindi bisognerebbe andare proprio all'agenzia e spiegare questo fatto per poi avere l'annullamento dell'avviso di accertamento. Stavo guardando intanto altre domande di altri ascoltatori, ma ormai stiamo chiudendo, non riusciamo più a rispondere a tutti coloro che ci stanno scrivendo e chiamando. Dottoressa De Cia, un'altra raccomandazione finale prima di salutarci, ce l'abbiamo oppure siamo a posto così? Ritorniamo su questi argomenti presto, magari facendo la chiarezza su tutta la documentazione che va messa da parte adesso per fare la dichiarazione dei redditi, per chi la fa e per chi non ha appunto, perché ci sono coloro a cui basta il CUD, ovviamente invece chi deve fare il 730 al modello unico devono fare altre cose, essere più attenti su altre cose. Grazie a Maria Luisa De Cia, Luca De Stefani, grazie per essere stati con noi, Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Paolino Corleone in assistenza tecnica. A domani.